429. Fave fresche in stufa. Prendete bacelli di fave grosse e granite, sgranatele e sbucciatele. Tritate fine una cipolla novellina, mettetela al fuoco con olio e quando comincia a rosolare, gettate nel soffritto prosciutto grasso e magro tagliato a dadini. Dopo poco versate le fave, conditele con pepe e poco sale e quando avranno preso il condimento aggiungete un grumolo o due, a seconda della quantità delle fave, di lattuga tagliata all'ingrosso e finite di cuocerle con brodo se occorre.